GR24, il sole 24 ore. OCSE sale la disoccupazione, l'Italia colpita duramente. INAIL, 920 morti sul lavoro, minimo storico nel 2011. Passa la linea Monti all'Eurogruppo. Casalesi sequestro da 800 milioni di euro a un imprenditore legato al clan del Casertano. Buongiorno dalla redazione da Adriana Franchi. L'Italia è stata colpita duramente dalla crisi ed è probabile che la disoccupazione continui ad aumentare. Quanto scrive l'OCSE nel suo ultimo rapporto sulle prospettive dell'occupazione presentato oggi a Parigi. A maggio sono circa 48 milioni disoccupati nell'area dell'OCSE, quasi 15 milioni in più rispetto all'inizio della crisi finanziaria iniziata a fine 2007. Per ritornare ai livelli pre-crisi occupazionale servirebbe la creazione di circa 14 milioni di posti di lavoro. Nel 2011 i morti sul lavoro sono stati 920, il numero più basso mai registrato, in ulteriore calo del 5,4% rispetto ai 973 dell'anno precedente. Lo comunica l'INAIL presentando il suo rapporto annuale. In calo anche il totale degli infortuni sul lavoro denunciati all'istituto, 725.000, in flessione del 6,6% rispetto ai 776.000 del 2010. La produzione industriale a maggio segna un aumento dello 0,8% su aprile, dato destagionalizzato, quando era stato registrato un forte ribasso, mentre risulta ancora in calo su base annua con una diminuzione del 6,9%, dato corretto per effetti del calendario, lo rileva l'Istat. La produzione di autoveicoli ha registrato invece una caduta del 20,9%, dato corretto per gli effetti di calendario. Passa la linea Monti all'Eurogruppo che vara le misure per lo scudo anti-spread decise all'ultimo vertice europeo. E qui in studio con noi per tutti gli aggiornamenti Sergio Nava, buongiorno. Come dicevate, un importante accordo per lo stanziamento di 30 miliardi di euro entro fine mese per la ricapitalizzazione delle banche spagnole. Ha poi prolungato di un anno la scadenza per Madrid per il raggiungimento degli obiettivi di deficit e ha confermato infine il varo dello scudo anti-spread fortemente voluto da Mario Monti e dall'Italia. Gli occhi del continente sono intanto puntati sul Karlsruhe, dove oggi la Corte Costituzionale tedesca ha cominciato l'esame relativo alla legittimità del Fondo Salva Stati e del Fiscal Compact. Un no dei giudici avrebbe conseguenze imprevedibili, ha avvertito il ministro delle Finanze Wolfgang Schäuble. A Bruxelles è giunto alle battute finali l'Ecofin, in cui partecipa per l'Italia il Premier Monti. Il ministro delle Finanze spagnolo Luis de Guindos, arrivando al summit, ha chiarito alcuni dettagli dell'accordo raggiunto in notturna. Gli aiuti europei alle banche spagnole avverranno a tassi molto ridotti, pari a circa il 3,4%, a volte anche più bassi. De Guindos ha aggiunto che questi aiuti saranno a lunghissimo termine, con una durata media di 12 anni e mezzo e un periodo di grazia di 10 anni. Il collega lussemburghese Luc Frieden ha sdrammatizzato: i 100 miliardi disponibili per la ricapitalizzazione delle banche spagnole sono molti di più di quanto queste stesse banche necessiteranno. E il francese Pierre Moscovici ha chiesto che la ricapitalizzazione delle banche abbia effetti retroattivi, ovviamente ricapitalizzazione diretta senza passare dallo Stato. Duri i toni infine sulla Grecia. L'austriaca Maria Fechter ha ribadito che Atene dovrà rispettare il secondo programma varato da Europa ed FMI. Proprio Atene oggi ha venduto titoli di Stato a 6 mesi per 1,625 miliardi di euro con un rendimento del 4,70%, in lieve calo rispetto all'ultima asta. È tutto. Grazie a Sergio Nava. Ora ci colleghiamo invece con Deborah Rosciani per un aggiornamento sull'andamento dei mercati finanziari. Buongiorno Deborah. Buongiorno anche a voi. Situazione piuttosto positiva questa mattina in Europa. Il mercato all'inizio ha guardato le decisioni dell'Eurogruppo di ieri accogliendole con una reazione piuttosto fredda, prudente. Per una parte della mattinata gli indici sono stati anche negativi. Milano e Madrid perdevano oltre mezzo punto percentuale, poi cambio di direzione netta dovuta proprio al dato sulla produzione industriale italiana. Meno molti operatori hanno ricondotto questo cambio di direzione proprio alla statistica italiana. Milano guadagna l'1,75%, Parigi più 1,27%, Francoforte più 1,48%. L'euro è ritornato sopra quota 1,23% rispetto al dollaro. Lo spread fra BTP e Bund ha registrato una discesa abbastanza consistente fino a 456 punti base. Rapidamente i migliori titoli di Piazza Affari: Finmeccanica più 5,55%, Fiat più 4%, Exor più 3,79%, Tenaris più 3,46%, in negativo Autogrill meno 0,14%, Terna meno 0,07%. È tutto. Grazie Deborah Rosciani. Ora veniamo invece alla spending review. Chiediamo tutti gli aggiornamenti a Vincenzo Miglietta. Buongiorno. Sì, buongiorno. Governo parte dalla Commissione Bilancio di Palazzo Madama, l'iter parlamentare del provvedimento sulla razionalizzazione della spesa pubblica. Alle 15 si riunirà la Commissione. L'obiettivo dichiarato più volte dallo stesso Governo è quello di chiudere la partita tra Camera e Senato entro i primi di agosto. Sono tanti tuttavia i nodi ancora da sciogliere e le resistenze di forze politiche e parti sociali. Notizia di questa mattina, la conferma da parte di Federfarma della serrata delle farmacie per il prossimo 26 luglio. I tagli per il nostro settore, hanno sottolineato dall'associazione che riunisce gli operatori del settore, sono insopportabili e vanno al di là della possibilità che ha una farmacia del Servizio Sanitario Nazionale di rimanere aperta. Altro capitolo, i tagli previsti dal governo e gli enti locali. Si terrà domani pomeriggio a Palazzo Chigi l'incontro tra il Premier Monti e le regioni. I governatori puntano il dito in particolare sulle riduzioni di spesa previste per il trasporto pubblico locale e per i servizi sanitari. La strada da seguire è quella dei costi standard, rivendicano in particolare Formigoni e Zaia. E da Roma è tutto. Grazie a Vincenzo Miglietta. 15 esponenti del Partito Democratico, tra cui Piero Ichino e Marco Follini, firmano un documento appello sulle prospettive del partito che sarà oggetto di un'assemblea convocata per il 20 luglio a Roma. Intendiamo promuovere una trasparente discussione sulle strade che vanno intraprese perché obiettivi e principi ispiratori dell'agenda del governo Monti possano travalicare i limiti temporali di questa legislatura e permeare anche la prossima, scrivono gli esponenti democratici. Sul fronte politico resta in primo piano la discussione sulla legge elettorale. Ci colleghiamo in diretta con Elisabetta Fiorito, buongiorno. Sì, buongiorno. L'appello del capo dello Stato Giorgio Napolitano ha subito un riscontro istituzionale. I presidenti di Camera e Senato Fini e Schifani convocano la conferenza dei capigruppo per il primo pomeriggio sulla legge elettorale. Il Partito Democratico preme poi per fare presto, per Anna Finocchiaro il disegno di legge deve andare subito in aula al Senato e avverte nessun baratto sulla riforma del sistema di voto e niente preferenze. Approva Maurizio Gaspari PDL, la legge elettorale si può fare e si deve fare, però è favorevole alle preferenze e dice no ai collegi, ma nello stesso partito Enrico La Loggia dice esattamente l'inverso. Insomma, c'è ancora molta confusione e c'è un altro appello del capo dello Stato proprio in questi momenti. Giorgio Napolitano chiede ai partiti politiche anticrisi dopo il voto e di maggiore integrazione europea. La situazione politica ed economica dell'Italia, ammette Napolitano, è molto condizionata dallo spread, ma la moneta unica rimane una conquista irrinunciabile. Così il capo dello Stato. Per il momento qui da Roma è tutto, per studio. Grazie ad Elisabetta Fiorito. E ora agli esteri, un uomo armato ha fatto irruzione stamani in una scuola di Vitry-sur-Seine nella regione di Parigi prendendo in ostaggio un gruppo di bambini e di adulti. Secondo fonti della polizia tutti gli ostaggi sono stati rilasciati. L'uomo invece è ancora barricato all'interno dell'istituto. Non si conoscono ancora i motivi del suo gesto. Gli agenti, le teste di cuoio francesi, stanno tentando di negoziare con lui. Una corte di Gerusalemme ha condannato per un capo d'accusa l'ex premier israeliano Ehud Olmert, assolvendolo per altri due nell'ambito di un caso di presunta corruzione che nel 2008 lo aveva costretto a dimettersi da capo del governo. Olmert dovrà scontare 4 mesi di lavoro al servizio della comunità. La Corte Penale Internazionale ha condannato Thomas Lubanga, ex capo della milizia della Repubblica Democratica del Congo, a 14 anni di detenzione per aver arruolato e fatto combattere bambini soldato. Si tratta della prima condanna pronunciata da quando la CPI è diventata operativa. Maxi sequestro di beni per un valore di oltre 800 milioni di euro eseguito nei confronti di un imprenditore edile ritenuto legato al clan camorristico dei Casalesi. È uno dei costruttori più vicini al potente clan camorristico dei Casalesi, già indagato in passato in alcune operazioni legate proprio al clan del Casertano. Oggi il GICO di Napoli, insieme allo SCICO di Roma e al Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Caserta, stanno eseguendo un decreto di sequestro preventivo di beni per un valore complessivo di ben 800 milioni di euro nei confronti di questo imprenditore casertano legato al clan casertano. Le indagini hanno mostrato che l'uomo aveva intestato negli anni a numerosi prestanome un patrimonio di immobili, auto e società edili ed immobiliari. L'ex campione di ciclismo statunitense Lance Armstrong sta tentando di bloccare il procedimento disciplinare avviato contro di lui dall'agenzia statunitense antidoping. Per questo ha depositato una querela che è stata respinta dalla giustizia federale per motivi formali. Quattro giorni densi di appuntamenti, la 26ª edizione di Arezzo Wave Love Festival torna così ad Arezzo da domani al 15 luglio e con un cartellone molto fitto. Dopo 5 anni di trasferte, Arezzo Wave torna dunque dove è nato. Oltre 100 eventi, molti gratuiti e tanti ospiti, da Caparezza Banda Bardò, da Malika Yana Nina Zilli, da Don Gallo a Dori Ghezzi, ma anche